salva sogni pronti per volare. La la la e la balla in mezzo alla sua città. Dai la in una bolla che scoppiare non sa. Lei guardava le luci della TV e poi si diceva lo puoi fare anche tu. La la la e la balla in mezzo alla sua città. Dai la in una bolla che lei chiama realtà. E quel giorno indossa le scarpette Bordeaux e ripensa al padre che gliele regalò. La la la e la il momento è arrivato. Dai la così tanto tu lo hai aspettato. Quello che vedi a volte non è ciò che credi. Quello che vedi a volte non è ciò che credi. TV, ma il regista chiede di osare di più. La la la e la è bella, troppo per la città. Dai la in una bolla che le voglio scoppiare. Dice se ci stai puoi scalare lassù. Il tuo talento nudo vale molto di più. La la la e la urla, scappa e se ne va. Dai la corre per le vie della sua città. E per strada vede una bimba danzare con due occhi grandi, grandi come il mare. La la la e la balla in mezzo alla sua città. Dai la ora insegna a chi vuole volare. Quello che vedi a volte non è ciò che credi. Quello che vedi a volte non è ciò che credi. Quello che vedi a volte non è ciò che credi. Quello in cui credi vale più di ciò che vedi. Quello che vedi a volte non è ciò che credi. Quello in cui credi vale più di ciò che vedi. Quello che vedi a volte non è ciò che credi. Quello in cui credi vale più di ciò che vedi. Quello che vedi a volte non è ciò che credi.